Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Noi viviamo nella più grande nazione che il mondo abbia mai visto. Grazie America, Dio vi benedica, Dio benedica gli Stati Uniti. Io penso che se vogliamo davvero ridurre l'impatto, il peso e la forza del Movimento 5 Stelle e se vogliamo recuperare un po' di astensionismo, la politica debba fare una cura dimagrante. Con l'aiuto di Dio continueremo il nostro viaggio. Il primo l'ha fatto Garibaldi, vi ha portato in Savoia e guardate come siete ridotti. Il secondo l'hanno fatto gli americani e vi hanno portato la mafia. Il terzo sbarco lo fa il Movimento 5 Stelle. Non hanno capito che è una rivoluzione culturale, non politica. Il leader è il movimento, è il programma. La gente deve cominciare a votare dei programmi, non delle persone. Pitagora era sull'Etna e ha fatto un discorso vestito da... Non vorrei ingrillirmi troppo, ma non trovavo maniera migliore per dare un seguito a questa mattina che parla di elezioni americane, per osservare la grande macchina del consenso, su quale leve si muove, perché ha vinto Obama, oltre per i reali concreti motivi, convincimenti profondi degli elettori americani. E c'è stata naturalmente una grande campagna, una campagna che abbiamo seguiti tutti, una campagna che ci ha impregnato fino all'ultima molecola in questa notte, intere reti televisive spalmate sulle elezioni americane. E di tutto questo cosa resta? Resta questa mattina come elemento emotivo, come punctum fortemente condiviso da tutti gli italiani, una foto. La foto non è altro che uno screenshot di un tweet del presidente Obama che ha fatto appena avuto la certezza di essere stato eletto, postando la foto di lui che abbraccia la moglie si vede di spalle naturalmente, lui bene si vede in faccia, primo piano, lui dice altri 4 anni, e tutte le signore l'hanno postata, e quanta melenzaggine coniugale apologetica 2.0 mi sono dovuta assorbire questa mattina, guardando queste amiche tardo nostalgiche dei mariti fuggiti, vagheggiati, prosciugati, tutti dicono come sono carini, come sono belli, che bello ha vinto Obama. Ecco, su questo è basato anche la forza di una vittoria politica e alle nostre latitudini. E come è interpretato il messaggio dei media, come viene usato, qual è il medium privilegiato su cui passa il consenso politico? Abbiamo messo non a caso assieme alcuni momenti salienti della campagna americana, campagna in cui si decidono anche le sorti del mondo, perché questa mattina siamo tutti a parlare del presidente degli Stati Uniti, non del presidente di un qualsiasi altro stato, perché gli Stati Uniti siamo anche noi. E alla stessa maniera, con la stessa enfasi, con la stessa forza, con lo stesso impatto emotivo, con lo stesso trascinante impeto, noi seguiamo le primarie dei nostri partiti e vediamo Renzi con il pulmino, vediamo Grillo che dà i decaloghi ai suoi che non devono andare in televisione, e vediamo il triste Bersani, vediamo lo zombie Berlusconi, vediamo tutte queste cose qui. Beh, 800 24 00 24, come noi percepiamo la politica attraverso i media. Professor Edoardo Novelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Professor Novelli è docente di comunicazione politica presso l'Università 3 di Roma. Roma 3. Lei, professore, ha seguito fino a che potuto, finché fisicamente ce l'ha fatto, queste lezioni in televisione, come hanno fatto o dicono di aver fatto molti? Relativamente, nel senso che a l'una di notte, quando ero mai chiaro che insomma si sapeva già, era sicuro. Ma comunque il responso definitivo sarebbe stato a tarda notte, e ho fatto ancora una carrellata su tutte le reti italiane che trasmettevano più o meno la stessa cosa, con una serie di ospiti abbastanza in difficoltà, perché avevano davanti la prospettiva di farsi la notte a non sapere bene cosa dire, a discutere sullo aio sì o aio no, rimandando delle notizie rimandate, a loro volta rimandate, perché i giornalisti ormai avevano ovviamente tutti i dispositivi tecnici, e allora interrompevano dicendo il sito della CNN rimanda che sul blog di Tizio ho pensato, ma non sarebbe forse più semplice spegnere tutto e domani, quando c'è il risultato ufficiale, darlo domattina alle 7, aprono tutti i telegiornali e danno una notizia. Questa mattina uno degli status più scritti su Facebook, e siamo soltanto all'inizio di cosa? Di altri 4 anni probabilmente, sì. E a noi cosa cambierà? Ma quello è da vedere, poi qui si passa dalla comunicazione, dalla propaganda o dalla campagna elettorale alle politiche. Sicuramente c'è da pensare che se fosse stato eletto l'altro candidato americano, forse delle linee di fondo economiche, di politica estera, per quanto i due candidati poi si siano tendenzialmente avvicinati, ci sarebbero stati. Quindi diciamo nel futuro dell'America, dell'Europa e forse anche delle nostre vite, qualcosa forse sarebbe cambiato. Diciamo la vulgata, almeno io guardo con lo sguardo superficiale di chi si limita a osservare i social network, oramai sono una realtà abbastanza fedele dello stato d'animo superficiale del paese, perché tutti hanno Twitter, tutti hanno Facebook, tutti hanno un palmare nella metropolitana, ogni persona che va a lavorare vuole dire la sua, vuole partecipare al grande evento. L'idea generale è che in Italia ha vinto il bene, ha perso il male, finalmente ancora una volta ha vinto il bene. Ma diciamo che non tutti chiaramente, però sicuramente diciamo che Obama raccoglieva i consensi di una vasta parte dell'elettorato italiano o degli italiani, non unicamente quelli più strettamente di osservanza di centrosinistra, insomma. Poi la figura di Obama era per altri versi stata apprezzata anche in altri contesti, diciamo, politici, quindi, o sociali, quindi sì, quello che una volta era il nuovo Obama, che 4 anni fa era assolutamente la grande novità, adesso era un usato sicuro, cioè una garanzia, mentre invece Romney, per vari aspetti del suo profilo, della poteva sua carriera, essere più inquietante. È un po' più inquietante, dava l'idea di un'America più arroccata, un'America che voleva tornare a mostrare i muscoli, che quindi insomma una figura che probabilmente un immaginario che non a tutti era gradito. Allora, visto che mi voglio fermare questa mattina alle rappresentazioni iconografiche, no? In realtà che non rappresentano poi nessuna realtà, però emotivamente ci colpiscono. Allora, mi fermo ancora a questa sorta di screenshot del tweet di Obama, che allo stesso tempo ha una parvenza di novità perché è diffuso tramite un social network, ma allo stesso tempo rappresenta la più retriva, la più bassa, la più bieca immagine rassicurante dei coniugi che si vogliono bene. È la fine di Cenerentola, è la fine di Biancaneve, è la fine di tanti film d'amore, insomma, la coppia. Però è piaciuto, ha colpito tutti. Beh, certo, perché quei film lì non piacciono, sono 40 anni che li vediamo da quando siamo bambini, insomma, e vissero felici e contenti, è un lieto fine. Sicuramente sarebbe stata la stessa foto, sarebbe stato Romney con la moglie, che altrettanto ruolo ha avuto come la famiglia nella sua campagna elettorale. E poi una foto che sintetizza appunto la vittoria coniugandola con delle caratteristiche proprie della cultura americana. In Italia, per quanto ci siamo americanizzati su tanti, da molti punti di vista, anche nella comunicazione politica, ecco, l'abbraccio finale con la sposa di spalle, che, però a me colpisce la sposa sia di spalle, però gli dice: non ti ho mai amato tanto come oggi, insomma, questa frase. Poi ma illude ognuno di noi che bisogna essere eletti presidente degli Stati Uniti per dire alla moglie ti amo? No, però insomma funziona. Ho visto che Romney ha ringraziato la moglie, ha ringraziato i figli, cioè questo elemento della storia. Anche il cane ha ringraziato Obama. La famiglia è negli Stati Uniti un elemento centrale dell'identità, della cultura, insomma era l'elemento centrale. Diciamo che il presidente maggiormente si è segato per una pompa sotto banco è stato Clinton. Sì, diciamo di sì, ecco, questo è stato lo scandalo sessuale negli Stati Uniti, hanno dei pesi. Da noi, ecco, sarebbe un po' improponibile pensare a molti dei nostri leader politici che si presentano con la moglie o con la compagna, bisogna dire. Beh, non dimentichiamo che una delle battaglie più strenue nella demolizione di Berlusconi di questi ultimi anni è stata fatta proprio su la compulsività sessuale, quindi ancora vale per noi questa cosa. Beh, noi siamo un paese strano, nel senso che l'elemento del matrimonio, della moglie e della sposa non viene messo in piazza tanto per quanto riguarda l'acquisizione del consenso, cioè è difficile vedere. Sì, perché non si sa mai, meglio tenere, sì, perché poi magari cambia in ombra queste cose. Esatto, però sicuramente siamo un paese che poi non saremo puritano come gli Stati Uniti, ma siamo un paese poi fortemente cattolico, quindi diciamo la condotta di Berlusconi andava un po' oltre quello che era mettere la famiglia al centro, e andava nei confronti di un era un un comportamento particolarmente, diciamo, dissoluto, libertino, che comunque contrastava tanto più da parte di colui che si schierava da una parte politica, che teneva la famiglia e i valori del matrimonio in palmo di mano. Ecco, quindi c'era anche altro. Abbiamo due ascoltatrici. Non a caso ho iniziato con la presa emotiva che ha avuto l'immaginetta di Obama con la moglie nelle twittatrici e nelle navigatrici in rete. Abbiamo subito due ascoltatrici. Rosa, buongiorno. Sì, buongiorno. Io per quanto riguarda il signor Obama non mi cambia la vita, quindi non ho telefonato per quello. Ho telefonato per il paragone che lei ha fatto di Grillo con il potere costituito, che mi fa schifo. Scusi, il paragone che ha fatto con Grillo? Ha fatto con il Grillo, con il potere costituito delle primarie, secondarie, eccetera, eccetera. Paragonare Grillo a coloro che sono detentori del potere costituito. Ma lei cos'è, una grillina arrabbiata stamattina? No, io non sono nessuna grillina. Io sono una pensionata con 700 euro al mese, di cui mi hanno tirato via 10 euro di addizionale IRPE, se permette, io ho il diritto di parlare. Quindi chi ne dice nulla? Ecco, perché dica cose sensate. Allora lei non mi paragoni a nessuno. Io sono una persona che sono una dei tanti trasparenti al mondo. Ma perché così arrabbiata? Mi appieni coglioni di tutta questa storia, va bene? Signora. Mi appieni coglioni di tutti questi paragoni del potere di tutto il resto. Faccia una passeggiatina, signora, si calma un pochino, perché è esageratamente sopra le linee. Non ho paragonato niente a nessuno, era un presigla. Ho fatto un parallelismo fra l'uso della macchina mediatica nella nostra politica e nella politica americana. Se lei è così arrabbiata, avrà i suoi motivi. Mi dispiace per lei. Laura. Ecco, sei pronta, buongiorno. Speriamo di stare più calma io. Ma sì, ma perché siete così arrabbiati? Io ho telefonato perché ho sentito da lei definire Berlusconi zombie. Mica una brutta cosa. No, dico, va bene, io guardi, non mi vergogno di dirlo, l'ho votato per 20 anni. Mica è un delitto, ha fatto anche bene. Anche se sono proprio agli antipodi come carattere, no? Ma lei sa cosa sono gli zombie? Cosa sono gli zombie, lo sa? Ma gli zombie, non lo so, io mi immagino una specie di animale che salta. No, comunque, partiamo da un fraintendimento. Lei non ha chiaro... Il termine è dispregiativo. No, assolutamente, a parte che è l'elemento portante di tutta la narrativa contemporanea, oggi tutta l'epica è basata sulla figura dello zombie. Lo zombie è l'umano che ha un suo forte rimpianto. Non è un umano, guardi. Io e lei potremmo essere zombie. Se si verifica la profezia di tutta la fantascienza legata agli zombie, l'umanità è destinata a essere zombie. I zombie sono esseri umani che per una sorta di capovolgimento cosmico, un errore nella valutazione di alcune armi chimiche o per motivi che non si sanno bene, cominciano a camminare e hanno una grande fame di mangiare il cervello di altri uomini. E lentamente si decompongono, si putrefanno, perché in realtà la loro natura... Sto spiegando se lo zampo, non lo sapeva, glielo sto dicendo. Qualcosa su Berlusconi, io non mi vergogno di dirlo, l'ho votato per 20 anni, forse ha fatto il suo tempo. Sì, ma che c'entra questa mattina, scusi. No, e va bene che si metta da parte. Ah, l'ha difeso, va bene. Mi faccia dire qualcosa, siccome lei l'ha definito zombie, a me dispiace. Ma non sa cos'è lo zombie, lei, scusi, zombie. Si è svolta la campagna americana, cioè questi non si insultano, questi due americani, non si sono insultati. Va bene. Ma io non ho insultato, il mio non era un insulto, è una definizione legata a alcune caratteristiche di conservazione fisica della persona che sono innegabili, a dei processi di contenimento della putrefazione che sono logici, ma leciti di fare. Zombie in quanto a dei comportamenti non controllati, ma nemmeno dalle persone che sono dalla sua parte. Non era un giudizio negativo, era puramente estetico. Nino. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Vorrei riportare la questione a livello politico vero. Cioè, una cosa, lei ha detto che cosa sarebbe poi in fondo cambiato con Romney. Una cosa che non è stata sottolineata bene dai mass media italiani sono alcune dichiarazioni sul diritto internazionale di Romney, in cui diceva comunque la Russia resta il nostro nemico, sottolineo nemico, sul piano geopolitico. Ora molti invece giornali americani hanno messo ben chiaro questo, e io credo che molti americani sono abbastanza stufi dopo tante cose, il Vietnam, ma anche recentemente. A me parla di preistoria, scusi, Vietnam, blocco sovietico, sono cose un po' passate però, no? Ponce? Sono elementi della storia un po' passati. L'Afghanistan è ancora, gli americani stanno morendo lì, e in Iraq lei dice che 5.000 morti americani. Sì, ma che c'entra con la Russia, scusi? Altre cose non significano niente. No, ma lei mi ha citato che ancora il presidente perdente, cioè quello che oggi non è più presidente, non ambisce per essere presidente, aveva citato come grande nemico la Russia. Ho capito male? Ma non è che l'ho citato io, guardi. No, lei l'ha detto, cosa c'entra con l'Afghanistan? Tra virgolette, Romney ha dichiarato... Vabbè, senta, non voglio parlare di cose di cui né io né lei abbiamo gli elementi. Poi ha perso, il discorso è chiuso. Professor Novelli, vediamo su questi interventi qual è la sua conclusione. Io sto solleticando quello che realmente, secondo me, è il polso che hanno gli italiani di queste elezioni, al di là dei salottini che vengono fatti in televisione. Vediamo lei come la pensa. Beh, particolarmente vivace il suo pubblico radiofonico. Ma sulla scelta politica, il discorso è... Lei è partito, il programma è iniziato facendo questo confronto, Stati Uniti-Italia. Noi abbiamo assistito da lontano a quella che è la più grande campagna elettorale, il più grande spettacolo mediatico-politico che sia mai stato messo in atto. C'è una grande rappresentazione, un grande show che parte con le primarie. Le primarie sono sì dei forti elementi di diffusione della democrazia, di diffusione del consenso, però oggettivamente sono diventati dei grandi show, anche perché di tutto questo si sono oggettivamente impossessati i mass media, l'informazione, la televisione, gli spot, e quindi il bisogno di narrare, il bisogno di raccontare, il bisogno di finire con un happy end, il bisogno di fare le primarie in giro per l'Italia, cioè quello ma che perché viene... le nostre metodologie che vanno sulla linea di quelle americane sono sempre il trash, l'emulazione fallita di queste cose. Guardo il faccia a faccia di Obama, fantastico, col suo antagonista, perché in Italia bellissimo. Non abbiamo 2 miliardi e 700 milioni di dollari da spendere per una campagna elettorale. Quindi è questione semplicemente, sono belle perché si spendono tanti soldi. Belle, non so se sono belle o sono brutte, sono sicuramente molto presenti, sono abbondanti, sono fine eccessive, piene di elementi, e poi sono costruite per poter essere raccontate, e c'è un'attenzione spasmodica dei media che ogni dettaglio, ma anche da noi nel piccolo stanno prendendo questo elemento. Le primarie che sono state introdotte nella nostra tradizione politica da pochi anni stanno avendo, comunque qualsiasi risultato politico avranno, si stanno rivelando un successo dal punto di vista della capacità di tematizzare. Riescono a stare sulla notizia, comunque. Creano la notizia, esattamente come Grillo riesce a creare la notizia non andando in televisione. Anche quella è una grande scelta che ovviamente può fare solo colui che ha un potere di convocazione proprio altissimo, perché se qualsiasi altro candidato dicesse bene io non vado in televisione, tutti risponderebbero bene, arrivederci, e non sapremmo nulla di lui. Non ci taglieremo le vene per questo. La Puppato sta facendo di tutto per poter andare in televisione, perché dice anch'io sono una candidata alle primarie, ma nessuno ieri era da Floris, ma insomma in maniera del tutto eccezionale. Grillo ha visto che lui è un personaggio, questo è il problema, ha una sua cifra, un suo bagaglio di popolarità, di notiziabilità. Lui può permettersi di dire io in televisione non ci vengo, e rompere questa regola, perché siccome sappiamo benissimo che la notiziabilità funziona sulla rottura degli schemi, sulla rottura delle regole, il famoso uomo che morde il cane, insomma, e non viceversa. Cos'è che fa notizia? Lo strappo, la gara, la competizione, lo strappo, sono tutti gli elementi. Grillo, che si permette di dire io non vengo in televisione, diventa improvvisato appetito da tutte le televisioni, e quindi tutte le televisioni mandano in onda i suoi discorsi. Ottenerlo sarebbe un grande risultato. Sì, ma si accontentano già di far vedere i suoi discorsi, la sua traversata, tutto quanto, e i suoi post che lui posta sui blog hanno un risultato incredibile, perché tutti i giorni sul giornale lui scrive 20 righe e le posta facendo pochissimo sforzo, e il giorno dopo sono gli stessi giornalisti che le vanno a recuperare e le citano tra virgolette interi brani, interi passi, criticandoli anche, ma oggettivamente diventa fonte di notizie. Accidenti, ma le posizioni di Grillo per criticarle vengono ampiamente riportate. Ci fermiamo un istante, diamo le informazioni della borsa e riprenderemo il punto da dove l'avevamo toccato qua con il professor Novelli. 800240024, stiamo parlando di uso dei media, della politica che più cosmicamente abbiamo osservato nella grande campagna elettorale, battaglia elettorale per il Presidente degli Stati Uniti, e in quella che più vicino e più concretamente stiamo osservando, intanto nelle primarie che stiamo seguendo, in quelle che saranno probabilmente future chiamate alle urne degli italiani. leggo tanti messaggi, dice, ho maltrattato, ho interrotto gli ascoltatori. Non è che li ho interrotti, uno dei miei mestieri è quello di tenere il timone sull'argomento. Non stiamo parlando in questo momento della politica internazionale di Romney, volevamo semplicemente capire quanto di queste elezioni americane è rimasto nella nostra emotività e quanto rimane abbarbicato nel nostro pensiero, nelle nostre idee delle elezioni primarie in Italia. Qualcun altro si è offeso perché ho detto zombie a Berlusconi, ho detto Berlusconi o zombie. Se devo classificare, sintetizzare, semplificare in una figura che emotivamente tutti conoscono e tutti condividono, quello che in questo momento il muoversi politicamente Berlusconi è quello dello zombie, la persona che si rifà delle nostalgie di vite passate. Nel film di Romero la scena più struggente è gli zombie che girano al supermercato, nel grande luogo dove andavano, erano felici, si aggiravano alla ricerca di qualcosa che nulla pagherebbe più della loro condizione attuale. Questo volevo dire, poi se non amate le metafore peggio per voi. Federico. Buongiorno Gianluca, anche se mi maltratterà cercherò di farmi... No, io non maltratto nessuno, non voglio farmi questa fama. Dunque, io volevo dare uno spunto di riflessione rispetto alle tematiche di oggi. Io ho avuto la fortuna di fare un anno all'estero durante le scuole superiori e poi di avere molto spesso frequentazioni con persone negli Stati Uniti. È una tematica che a noi manca e che spesso e volentieri vediamo anche mancare all'interno dei talk show. È proprio la capacità di confronto a livello di dibattito, loro lo chiamano negli Stati Uniti debate, è una logica di confronto tra persone su tematiche e non tra persone che diciamo è nella cultura americana fin dalle superiori, fin da quando comunque si comincia a essere raziocinanti, ed è una cosa che manca fondamentalmente da noi, anzi da noi c'è la tendenza a scappare, ad andarsene ad esempio nelle trasmissioni quando il confronto si fa più serrato, e dove si fa più serrato eventualmente c'è l'attacco personale. Ma lei ricorda che hanno dovuto fare delle regole per i faccia a faccia televisivi quando non dovevano guardarsi in faccia, il conduttore doveva tenere lo sguardo fisso alla telecamera e non ammiccare a nessuno dei due. Io all'inizio della trasmissione ho ammirato i due dibattiti che ho seguito così per curiosità, appunto, fra Obama e il suo antagonista, per la regia, per la maniera intelligente che avevano, passeggiavano, si incrociavano, si guardavano, si sedevano, stava in piedi, sembrava una fantastica pièce teatrale con una regia concordata. In realtà erano due persone che si confrontavano, professore Edoardo Novelli che è docente di comunicazione politica all'Università Roma 3. È d'accordo su quello che dice il nostro ascoltatore? Ma dunque, per certi versi sì, teniamo però presente una cosa, il confronto sui temi è sicuramente nella tradizione americana, anche perché il dibattito, i famosi dibattiti, 3-2 a seconda dei casi, ma sostanzialmente 3, fanno parte della cultura politica americana, televisivi dico, dal lontano 1960, quando si confrontarono per la prima volta Kennedy e Nixon. Da allora è rimasto un momento centrale, e per regolare questi dibattiti però non è che siano così spontanei, perché vi sono delle regole ferree. Lei accennava al regolamento italiano che venne introdotto dalla par condicio, che era una cosa bizantina, però anche lì ci sono non dovevano nemmeno guardarsi negli occhi, non dovevano ammiccare, non dovevano, ecco, lì sono regolati liberi nel confronto, però ecco, il confronto è impensabile che un presidente o un candidato alla presidenza americano rifiuti il confronto, cosa che per esempio in Italia succede tantissimo. Berlusconi, soprattutto quando era in vantaggio, ha sempre rifiutato il confronto, perché si sa che il dibattito televisivo, come ha dimostrato anche questo primo, il primo di questi tre, è solo di grande aiuto, può solo essere di grande aiuto allo sfidante, a quello che è in svantaggio, perché può recuperare, altrimenti le posizioni acquisite e consolidate non si mettono in gioco. No, esatto, se sei in vantaggio non hai interesse a sfidarlo. Diciamo, questi confronti americani sono estremamente regolati, l'altezza del palco, l'altezza del leggio, delle luci, cioè c'è uno studio. Poi però il confronto c'è, vero, ma anche perché noi siamo abituati a un giornalismo negli Stati Uniti che molto fa il cane da guardia e molto poco fa il cane da passeggio. Chi in Italia, insomma, cioè i talk show italiani, il giornalista, ognuno sceglie i suoi, è chiaro, sceglie i suoi, ma li sceglie oltre che per una posizione politica, attenzione, un collateralismo politico, li sceglie in funzione di quello che dicevamo prima, lui crea un casting, cioè i vari Floris, i vari Vespa eccetera, devono creare un cast in tutte le serie, perché poi vengono giudicati non per quanto quel dibattito ha contribuito, ma l'ascolto che ha fatto, certo, al livello democratico, ma sull'ascolto. E quindi hai bisogno sanno benissimo alcuni di questi conduttori che ci sono delle coppie, esattamente come nel teatro, come c'era Walter Chiari e Tognazzi, che funzionavano. Beh, anche lì nella politica come italiana, un periodo era Sgarbi Mussolini, ci sono dal punto di vista dello sfascismo, poi dal punto di, ci sono, però ecco, quindi quando li costruiscono è ovvio che la televisione in Italia, sebbene si dica che i social network, è ancora la televisione che principalmente è determinante. Sentiamo se è d'accordo Andrea Febbraio. Buongiorno. Buongiorno. Esperto in social media, cofondatore di Buzzing.it, che è una Buzzing.it, che è una piattaforma che si occupa appunto della diffusione dei brand attraverso i social media usando sistemi e strategie. Lei è d'accordo su quanto dice il professor Novelli, che ancora la televisione fa da padrona, oppure questa idea del buzz, cioè il passaparola, certo, ha ancora un suo significato? Io rispetto ovviamente il professor Novelli, però non posso essere d'accordo, chiaro, ovviamente, ma sembra anche normale, direi, visto il mio lavoro. Nel senso che, in linea di principio, quello che dice il professor Novelli, dal punto di vista numerico, correttamente, se diamo una fotografia attuale della situazione in Italia, è ancora forse come dice il professor Novelli. La verità però è che bisogna poi andare a scavare, no? E scavando si scopre, per esempio, che in Italia soltanto il 50% della popolazione è collegato e ha un accesso a internet. Inoltre, l'Italia, come sappiamo, è un paese per vecchi, nel senso, è triste dirlo, però l'Italia, come sappiamo, demograficamente è molto penalizzata. Perché ma non siamo il primo paese per smanettatori sui social network. Siamo il secondo paese al mondo, uno dei, diciamo, primi per penetrazione di Facebook sulla popolazione attiva in internet. Però questo dice poco, nel senso che se io confronto la Turchia è la prima nazione al mondo per penetrazione di Facebook nella popolazione, ma questo non perché magari in Turchia ci sia più facilmente l'accesso alla banda larga o cose del genere, che non è così, ma semplicemente perché in Turchia ci sono molti più giovani che in Italia, e poiché i giovani sono, diciamo, la forza trainante che va sui social network e su internet, nel paese come l'Italia è penalizzato, perché non essendoci tanti giovani, poi sul totale la proporzione ovviamente diminuisce. Però, cito zombie in maniera colorita, sì, subito la gente si offende. Era giusto come la sua citazione, forse è stata fraintesa, ma io l'ho capita e penso di sì, anche d'accordo. Il discorso è un altro. Adesso volevo riportare il discorso su due cose, perché vi ho ascoltato, che mi sono sembrate molto interessanti e magari potrebbe essere anche spunti per le persone. La prima è il discorso della foto di Obama, no? Voi prima parlate della foto di Obama se in Italia sarebbe stato possibile, eccetera eccetera. Tutti noi siamo specialisti, cioè la nostra società è specializzata nel far diventare i video virali in rete, e in pratica siamo dietro, diciamo, al successo dei video. Quella foto l'è diventata questa mattina. È stata la foto per noi interessantissima, perché è il tweet più twittato di sempre, cioè è la foto più twittata di sempre nella storia di quando esiste Twitter, quindi da 6 anni a questa parte. Ma me ne sono accorto immediatamente questa mattina. Subito. Ora, voi vi dovete però sempre chiedere una cosa. No, noi diciamo una cosa sempre in tutti i convegni dove parliamo, i seminari, nei libri, adesso uscirà il nostro libro: content is the king, distribution is the queen. Che significa? Tutte le persone pensano che la foto ha girato il mondo perché è una foto emozionale, il contenuto emozionale poi è associato ad Obama. Che l'hanno pompata come si deve. Ma la maggior parte delle persone dimenticano che di spontaneo non c'è assolutamente niente. Il buzz, cioè il meccanismo del buzz, non è come tutti pensano. C'è una differenza, diciamo, abissale tra il word of mouth, cioè il passaparola, e quella è una cosa spontanea. E poi il WOM, con una M in più alla fine, che significa word of mouth marketing, cioè significa che c'è qualcuno che può in qualche modo distribuire un certo tipo di contenuti ad arte per fare in modo che si propagano, che è poi per esempio il lavoro della nostra società. E come si fa, ad esempio? È molto semplice. Io questa mattina, scusi un attimo, poi le do tutto lo spazio. Sì. Io ho preso in giro tutte le mie amiche di Facebook, sì, dicendo melenzaggine coniugale apologetica, perché tutte, sì, hanno detto che carini, tutte, sì, donne con i mariti, sì, che sono scappati o che sognano i fidanzati, si sono commosse. Ma in realtà sono state colpite da un colpo di buzz che l'ha presa e fa capo e collo. Allora, le dico tre cose, tre parole. La prima è Twitter Bombs. In pratica esiste una tecnologia che teoricamente sarebbe illegale, però è stata usata, per esempio, nelle elezioni di... Ci sono prove che sia stata usata da entrambi, poi magari non direttamente da loro, ma da qualcuno dei loro supporter, no? Magari loro neanche lo sapevano, che si chiama Twitter Bomb, che consiste praticamente in, all'interno di Twitter ci sono delle trending topics, non so se ci avete fatto caso, sì, certo, basta mettere davanti l'hashtag in una parola e quella parola sale. Ovviamente funziona come i libri bestseller, no? Se io entro in libreria, io sono autore di libri, ma il mio libro non è nella lista dei bestseller, non verrà promosso e nessuno lo compra. Non lo espongono in vetrina, nessuno lo vede. Su iTunes, la maggior parte delle... per riuscire a essere scaricati, io faccio un'applicazione e la metto su iTunes, la mia applicazione deve stare nella lista delle 40 applicazioni diciamo, più scaricate da iTunes, perché le persone, un po' come le pecorelle, seguono il branco, ok? Ora, se io sono su Twitter un giorno, oggi, stamattina, e vedo i trending topics, io sarò molto influenzato al cliccare su quel trend, perché sono incuriosito da sapere perché il resto delle pecorelle vanno in quella direzione. Piove sul bagnato, siccome. Bravissimo. Si chiama anche, cioè, per citare la Bibbia, Matthew's Effect, l'effetto Matteo. I ricchi saranno sempre più ricchi, i poveri saranno sempre più poveri. Questo si applica benissimo in questo caso. È dura, perché, ma è così. Esatto. E la tweet and bomb funziona così. Io artificiosamente, con dei bot, creo dei tweet finti, fake, che hanno quel hashtag con quella parola, per pompare in alto, ovviamente, quel tipo di... Ma è vero, ma è vero che esistono due possibilità: o usare dei bot, quindi dei robot, dei sistemi, diciamo, sì, dei piccoli software che moltiplicano, o se no prendere degli indiani o delle persone in luoghi depressi, pagarli e fare questo lavoro. Sì, sì, veniva fatto un tempo per i videogame, per esempio nei giochi di ruolo era scientificamente provato che bisognava giocare 300 ore per poter avere accesso a un particolare tipo di livello. Ma molte persone americane pagavano persone in Cina, all'altra parte del mondo, con PayPal. Queste persone, che non avevano altre possibilità, si chiudevano in un capannone, giocavano per 300 ore, poi quando raggiungevano quel livello ripassavano l'account al giocatore. Io mi immagino tutti gli indianini che questa notte twittavano la foto di Obama con la moglie per far felici le mie amiche questa mattina, che sono sdelinquite, innamorate, lasciate andare su questa bellissima immagine coniugale. Ci ho messo un po' di tempo, che ho cambiato lo status di Facebook dicendo: ci siete cascate tutte, amiche mie, la foto di Obama con la moglie che vi commuove, prodotta da milioni di piccoli indiani che ve l'hanno fatto trovare questa mattina. Professor Novelli, su questa rivelazione sconvolgente cambia qualcosa rispetto però ai parametri della politica? Vede, in Italia ancora, poi vedremo come e in che maniera i nostri politici sanno usare, non si è appieno consapevoli di queste strategie. Ci ha spiegato Andrea Febbraio facilmente è possibile creare un'emozione alle signore italiane. Ci ha dato uno squarcio di luce dal sapore vagamente orwelliano su queste nuove tecnologie. È ovvio che ogni tecnologia ha delle sue regole, ha dei suoi meccanismi, ha dei suoi percorsi produttivi, e quindi è impensabile che Facebook, Twitter, eccetera, non rispondano a questi criteri. Poi sappiamo benissimo che molti di queste informazioni vengono vendute per la pubblicità, quindi insomma non è il paradiso della democrazia, il luogo del libero confronto. Cioè, c'è qualcuno che sostiene che quando tu utilizzi un'applicazione gratis, il vero prodotto sei tu, perché sono le tue cose. Allora, questo è un dato. Dall'altro lato c'è un discorso che sicuramente queste nuove tecnologie, questi nuovi strumenti sono usatissimi, e una riflessione è, oltre a chi ci può essere dietro, come possono essere guidate o manipolate, e quali sono gli effetti. Ecco, oggi tra l'altro c'era un articolo interessante di Repubblica che commentavamo prima, sulla radicalizzazione delle opinioni. Allora, noi molto spesso ci capita di dire, capita a tutte le persone che in vari ambienti sociali, noi viviamo spesso in sfere sociali omogenee, no? E uno dice: ma accidenti, io non conosco quasi nessuno che vota per l'altro, eppure com'è che piglia così tanti voti? Gente dice: ma io non conosco nessuno che vota Berlusconi e poi Berlusconi piglia tanti voti. Probabilmente altri dicono: io non conosco nessuno che votava, un tempo si diceva che nessuno conosceva chi votava la Democrazia Cristiana, però poi alla fine pigliava sempre la maggioranza dei voti. Ecco, perché tendenzialmente viviamo all'interno di sfere sociali e culturali piuttosto omogenee, ci circondiamo di persone che più o meno la pensano come noi. Ora, la cosa interessante da capire è se i social media invertono questa tendenza, cioè ci mettono in un circuito di relazioni più ampio, ci permette di confrontarsi, visto che non c'è la materialità, sono luoghi senza spazio materiale, di confrontarsi con altre opinioni che nella vita reale non abbiamo occasione di incontrare, oppure se finiscono per essere ulteriormente dei ghetti o comunque degli ambienti dove noi ci circondiamo solo di amici, di like, di mi piace, che sostanzialmente non fanno altro che rafforzare la coesione di questa sfera sociale all'interno della quale noi viviamo. Cioè, non è che girando in internet e girando su Facebook 12 ore al giorno io ho occasione di avere notizie degli altri, confrontarmi con altri punti di vista, ma anzi mi metto intorno e mi circondo di persone che la pensano sempre più tendenzialmente. È quello che un po' la mattina dice Alexander Stille su Repubblica, quando dice parla del web, come si rispecchia questa sorta di accelerazione della reattività, della diversità nel web. Se nei confronti, nei dibattiti in televisione sembrano sorridenti, pur convinte le loro posizioni, nel web sembra inconciliabile, lo vedo, gli sms che mi stanno arrivando, spero ti sbattano fuori, che ti seghino, perché naturalmente non essendoci nemmeno la possibilità di dibattito, uno ha la possibilità di accesso costante. Io vorrei però, fermo restando che adesso con febbraio continueremo la nostra analisi, mi interessa molto, dell'emotività gestita attraverso i social media delle elezioni americane, vorrei avere un veloce spaccato della situazione italiana. Abbiamo al telefono Vincenzo Cosenza, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Responsabile blogmeter.it, che è un servizio che misura e valuta mensilmente la presenza di aziende, brand, personaggi pubblici e soprattutto anche politici nei social media. Ci ha dato febbraio un'immagine di quello che sta accadendo rispetto ai messaggi che vengono dall'America, ai buzz americani. Ma i politici italiani che stanno provando a usare, questa mattina anche Formigoni ha scritto che bello, hanno fatto presidente degli Stati Uniti, gloria, onore, fortuna e via dicendo, e subito è diventata notizia. Cosa sta accadendo nell'universo italiano? Abbiamo fatto una fotografia con te qualche settimana fa, vorrei un aggiornamento. L'aggiornamento, se guardiamo in generale ai maggiori politici italiani, se guardiamo al buzz appunto in rete, quindi alle citazioni in rete sui blog, sui forum, sui siti di news, sui social network, quello che è successo nelle ultime settimane è che se prima era Mario Monti ad essere il più citato in rete, nell'ultima settimana prevedibilmente è stato Silvio Berlusconi a superarlo. Vedi, io ho detto zombie, ma fino a un certo punto una sorta di vita apparente rimane presente però nei social media. Assolutamente sì, nel momento in cui Berlusconi riappare in video soprattutto, c'è un riflesso che amplifica molto sui social media la sua immagine. Professor Novelli, questo se lo spiega lei? Ma ci sono state varie vicende che hanno di nuovo portato all'attenzione Berlusconi. Primo, per le vicende giudiziarie c'è stata la condanna. Secondo, ci sono state le sue dichiarazioni, diciamo, altalenanti, prima pro, poi contro, esco, non esco, quindi adesso non so a che periodo si riferisce. Però è sempre una capacità di saper usare la grande macchina dei media. Ah beh, in ogni maniera. Sì, questo sicuramente. Che in fondo è il più analogico dei politici italiani. Beh, quello che lui faccia notizia è indubbio, insomma, la capacità di attirare su di sé l'attenzione, di costruire l'evento, lui l'ha sempre avuto. I suoi colleghi giornalisti che dovevano seguire Berlusconi erano comunque entusiasti perché sapevano che in ogni caso portavano a casa la notizia. Quando c'erano i giornalisti che dovevano seguire Prodi, un problema era la sua opacità, la sua difficoltà a creare. Il grande problema dei notisti politici, la stampa italiana, con l'inizio del governo Monti, è stato quello che non avevano niente da dire. Erano persone che parlavano per di fortuna cose... che la Fornero piangeva ogni tanto. È stata la fortuna di tutti, che ogni tanto dà degli spunti. Ha rinnegato quello che in realtà è la sua vera gloria ultimamente, quando ha detto devo stare attento a quello che dico, se no fanno i titoli. Però è quella che ha più visibilità. Io sto parlando di un'analisi puramente mediatica, sì, non entro in merito. Assolutamente. Mediaticamente è una persona che ha un suo spessore, una sua visibilità. Fabio, sentiamo Fabio velocemente. Sì, buongiorno, l'ho chiamato prima perché, come dicevo alla telefonista, alla persona che prende le telefonate, io 4 anni fa mi sono iscritto alla lista dei democratici abroad, che è una comunità che sostiene la campagna. Sì, però la sigla ci sta segando. È stato soddisfatto questa scelta? Sì, perché ho potuto vedere come funziona il meccanismo. Ce lo spiegava un'altra volta, perché la sigla ci sta chiudendo. Ringrazio il professor Novelli, ringrazio Andrea Febbraio e Vincenzo Cosenza. A domani.